Signore e signori. Dai. Signore e signori. Gigi D'Agostino. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Se volete scrivermi, il numero di SMS è il seguente: 3334 67 662. M2O, frequenza, benevolenza. Ogni giorno ci gira intorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Col cammino ho segnato il mio destino, ho segnato il mio destino, ho segnato il mio destino, ho segnato il mio destino, ho segnato il mio destino. Arriva, Gigi D'Agostino! M2O 2M2O 2M2O 2. Agosto, sono in officina a lavorare. C'è un tempo così grigio. Per fortuna esiste il Gigi che tira sul sole anche quando è buio. Quando è buio. Quando è buio. Daniela, ti amerò per sempre. Tuo Marchino da Milano. Like a river that goes to the sea, this is the way that it has to be. Gigi, che un vento di danza sia sempre nell'aria che respiri. Cioè, questa è forte questa. Savio di Minervino Murge. Vorrei dedicare Per me amore alla mia ragazza Marta. La amo da impazzire. Beppe 87. Gigi, mi fai ascoltare Per me amore? La dedico alla mia piccola, Angela. La amo più di ogni cosa, Dede. Sono Sergio. Per favore, oggi, martedì 3 ottobre, fammi gli auguri a quella che, nel tempo, è diventata la favola della mia vita.

la vorrei dedicare a Gioia di Trigoria. Sono Chris da Piazza Armerina, Enna. Voglio ascoltare Silence e dire al mio amore che lo amo. Your life into the destiny of love. Walk it hand in hand and then hold me tight when I look into your eyes. I've been waiting for your love. All your life just flowed. Il tuo cammino mi porta oltre il sole. Porta oltre il sole. Continua a farmi sognare e a tenermi in questo sogno elettronico. Sono Mattia da Genova. Vorrei sentire I Wonder Why. Sì. Sono Alessia. Volevo dedicare I Wonder Why a tutti i miei amici e mandarti un bacio. Ma quanto vola il tempo quando io sto con te, e quanto è fermo il tempo se tu non sei con me. Ma quanto sente il tempo l'amore che ho per te, perché ti sento dentro e tu voli con me. No, now you're sleeping away in your bed. Down here I'm thinking what you said. A long time ago. But always the same in D'Agostino. Musica, musica, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica, musica, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Mitch. Sono Mitch. Potresti suonare ginnastica mentale. La amo. Saluto Deborah e il Perry. Sono Roberta. Ti sto ascoltando alla radio e vorrei che il cammino durasse per sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Dammi una stoppata. Sempre. Vorrei dedicarmi ginnastica mentale. Sono Marco. Volevo dedicare al mio bimbo di 9 mesi ginnastica mentale, visto che quando l'ascolta batte le mani. Batte le mani. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Sono Marco da Savona. Suonami picchia. Picchia, picchia. Suonami picchia. Vorrei dedicarla a Nick e Toro. Sono Antonio da Cosenza. Per favore, puoi mettere picchia? Certo. Che ce la puoi fare? Che è la mia preferita. Potresti mettere la canzone Ti amo? La dedico al mio amore Peppe. E ti ringrazio perché il 22 ottobre realizzerai il nostro sogno. Un bacio. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca.

Gigi, sono Cassia da Milano. Vorrei dedicare Un giorno credi al mio amore Emanuele, che sta a Torino. Adesso infatti lo suono. Il cammino di Gigi D'Agostino. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Vorrei dedicare quella che tutti chiamano Beyond in the Sky a una bellissima ragazza. Emma, come si chiama? Ilaria. No, per sapere. Giamma da Lucca. Ogni giorno la vita ci mette alla prova. Papà, con te non avrò paura di niente e ti renderò fiero di me. Sei unico. Ti sono sempre vicino. Tuo Francesco. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Quasi il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Sono Roby da Varese. Mi salutate Luana. Ciao. Oh, Oggi, 3 ottobre, Maurizio, il mio migliore amico, compie 34 anni. Sti cazzetti. Gli voglio dedicare Gigi's Violin, perché i violini portano lontano, verso giorni migliori. È vero, è vero. Luca. Sono Fabio da Torino. Vorrei dedicare Gigi's Violin a mia moglie Steffi. La canzone che ci ha fatto innamorare. Sono il Bonna. Per favore, suona il tuo violino. Saluto Arceto. Da Gallarate. Volevo dedicare Cammino a Gaia, la ragazza che amo più di me stesso da un anno e due mesi. Sono legato, frastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, il sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'altro che non mangio frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Con il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, e come un soldatino taratara. Fare del male, almeno una rimane, almeno un Cristina. Volevo dedicare lo sbaglio a DJ Alex S e dirvi che lo amo da morire. Sono Carlo. Mi volevo autodedicare lo sbaglio perché in questi periodi ne ho fatti parecchi e non so più qual è il mio meglio. E io non lo so. Ciao Gigi, sono Pier da Sassari. Voglio dedicare lo sbaglio alla mia migliore amica che si chiama Simona e a mio fratello che si chiama Stefano. Benissimo. Ciao Gigi, sono Pier da Sassari. Voglio dedicare lo sbaglio alla mia migliore amica Chiara. Chiara o Simona? A cosa? Ciao Gigi, sono Pier. Sono Nicola e sono a letto con l'influenza. C'è qualcosa che può prescrivere, dottore? Certo, lo sbaglio. Esatto. Siamo Francesco e Salvatore. Abbiamo appena finito di lavorare e ti ascoltiamo. Bravi, bravi. Suonaci lo sbaglio. Sono Andres dalla Romania. Vorrei dedicare lo sbaglio alla mia ragazza. Lo sbaglio lo metto. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa, qual è la soglia, per poter dire, siamo in taglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Vorrei dedicare lo sbaglio al mio ragazzo Jeremy. Grazie al mio amore sto guarendo. Ti amo. Francesca da Canale. Solo una maglia, non c'è canzone senza lo sbaglio. Da Brescia. Volevo dedicare Gigi's Love al mio cuginetto Fabio, appena nato, nella speranza che cresca come me, col lento violento nel sangue. Bravo. Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato alla discoteca Max, Bressanone, Bolzano. Ci sono anch'io, Sì, vabbè. Domenica 8 ottobre alle 15, Gigi D'Agostino sarà a Vicenza, discoteca Nord-Est, Caldogno. Spiegazione finita. Ciao folclorista, sono David. Potresti suonarmi quel brano con il sax che hai usato qualche tempo fa come sigla? Grazie, grazie, grazie, grazie. Telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. Per maggiori informazioni www.gigidagostino.com. Oppure www.gigitag.com. A ripompa rompa rompa. Ciao Gigi, siamo tre truzzi da Trento. Ah? Tutti e 33 trotterellando. Che dici? Vorremmo ascoltare semplicemente Livio, Freccia e Fabio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Spettacolo questo. I drive around all day long. I listen to radio songs. I'm taking what you become. What you want. Stop and talk to me. A little help from the moon. Only a few words I will say. God help me, I have to pray. Your eyes are deep in my heart. I stumble over your smile. I'm taking your heart to become what you want for your life. Claudio da Torino. Se non canti, non balli. se non balli, sei senza calli. Calli, calli. Che dici? Preciso. I stopped and talked to you. A little help from the moon. Only a few words I will say. But help me, I have to pray. I hope you're going to stay. We'll be together someday. Dottor Doug, siamo Laura, Giorgia e Giulia da Ceccano. Puoi dedicarci l'amour toujours. Gabi, ti amo. Sono Francesco da Milano. Mi faresti ascoltare l'amour toujours, per favore? Ovvio. Sono Simo dalla Sardegna. Mentre ascolto il cammino di Gigi D'Agostino, penso a Francesca. Vorrei dedicarle l'amour toujours. Ciao, sono Massimo. Vorrei dedicare una canzone a mia moglie Floriana e a mia figlia Rebecca e al neo arrivato Luca. Sono Nicola dalla Sardegna. Vorrei dedicare al mio amore Simona l'amour toujours e dirle che è la luce dei miei occhi. Messaggio per la ragazza che ha perso il papà. Non c'è separazione definitiva finché c'è ricordo. Al da Cuneo. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. I'll fly with you.